Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Di riqualificazione dei condomini abbiamo parlato tante volte, sottolineando come rappresenti una grande opportunità sia per ridurre la bolletta energetica, sia per ridurre le emissioni inquinanti e per aumentare il comfort delle abitazioni. Abbiamo anche spiegato tante volte il ruolo in questa partita delle Energy Service Company, le ESCO, in qualità di soggetti che eseguono le opere di efficientamento a proprie spese per poi ripagarsi con il risparmio energetico. In teoria tutto perfetto, ma di casi concreti se ne vedono pochissimi. Abitami, di cui parliamo stasera, è un tentativo, non l'ultimo certamente in Italia, di smuovere la terribile inerzia di molte parti del sistema rispetto a questa opportunità. Si tratta della campagna di riqualificazione energetica dei condomini di Milano ed è appena stata presentata. È un tentativo di mettere insieme tutti gli attori della partita con un obiettivo principale: sensibilizzare i condomini, ma soprattutto amministratori e consiglieri di condominio. Sentite che cosa ci racconta tal proposito Giovanni Pivetta, responsabile di Abitami, intervistato da Federico Pedrocchi. C'è una certa difficoltà con gli amministratori, no? Mi pare che voi diciate. Esiste il conno di bottiglia, perché innanzitutto se fosse stato possibile da parte dei soggetti che sono gli attori principali del mercato della riqualificazione energetica, cioè le imprese edili, le imprese impiantistiche, le aziende che forniscono tecnologie e brevetti di alta qualità, gli studi di progettazione, i tecnici professionisti che sono gli auditor energetici, fosse stata data la possibilità di entrare in contatto con gli amministratori, avrebbero fatto un accordo quadro. E invece non è stato possibile. Non è stato possibile perché nella realtà questo tipo di attività, che oggi dovrebbe, l'attività di amministratore, che dovrebbe evolvere in un'attività di manager nel mondo immobiliare, che vuol dire avere a che fare con le problematiche di valorizzazione dell'edificio, siamo ancora fermi a una gestione individuale, un mondo assolutamente di carattere medievale, dove ogni singolo amministratore si gestisce un parco di fornitori per i lavori di manutenzione, ha molto spesso deprofessionalizzato la sua attività facendosi pagare una cifra, voglio dire, risibile per poterlo fare, il che ha voluto dire gestire in una maniera diversa, se vogliamo usare questo tipo di espressione, la relazione con il proprio parco dei fornitori. Diciamo che proprio non è adeguato al progetto, ecco. Non è adeguato più che al progetto, non è adeguato a un modo di fare economia non solo green, ma un modo di fare economia di carattere trasparente. Anche tout court, lei dice. Adesso veniamo a come si muove il progetto dopo aver convinto i soggetti. C'è la necessità, voi l'avete individuata, di avere dei prototipi, cioè di avere un primo nucleo di edifici che in qualche modo cercate di far vedere, di mettere in campo. Qui avete stanziato anche una cifra per favorire questa prima pattuglia. Certo, perché la gente comprenda il valore dell'efficientamento energetico, ci vogliono degli esempi e ci vuole un atto di positività da parte delle imprese, in questo caso delle ESCO. Quindi i primi 6-7 condomini di Milano fossero disponibili a farsi efficientare gli impianti nella città, ci sono a disposizione, voglio dire, quasi 2 milioni di euro per poterlo fare da parte delle ESCO, che sono partecipanti al network. E quindi questi condomini non avranno questa spesa? Non solo non avranno la spesa, avranno un contratto garantito, per cui non spenderanno. Se qualcuno sta pensando che però gli verrà incrementato, voglio dire, la spesa dell'erogazione dell'energia, cioè di quanto paga sostanzialmente come spese condominiali per il riscaldamento, questo non avviene. Resterà. C'è un contratto garantito. Okay. Dopodiché però sul resto bisogna investire. Qui voi chiamate le banche. Sì, bisogna che le banche facciano uno sforzo ad avere dei prodotti finanziari che non abbiano ipoteca e quindi che siano dei prestiti e abbiano un tempo, un lasso di tempo di restituzione di quantomeno 10 anni, che poi è il lasso di tempo in cui è possibile verificare quello che è il ritorno dell'investimento, se parliamo anche di riqualificare l'involucro edilizio, che vuol dire valorizzare l'immobile, cioè toccare, realizzare un cappotto termico e cambiare sostanzialmente i serramenti. Questo valorizza ai fini della locazione, ai fini della compravendita, il mio immobile ma anche la mia unità immobiliare. Torniamo in studio solo per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.